Parte 4. Fragilità guerriera. Infrangere quello che è già dettato? Non lo puoi tanto a lungo, mia dama, né lo puoi fuggire di più, mio cavaliere. Ci raggiunse quella luce da mattino d'agosto, e la luna era appena calata. Se ne vedeva una falce nel cielo. Che fa il mio bimbo? Che fa il mio capriolo? Verrà 3 volte ancora e poi non verrà più. Disse al figurinaio: fammi una statua di cera che si muova come un uomo vero. I morti, se li tocchi, sono freddi. Invece i vivi sono tutta un'altra cosa. L'amore mio, quando lo toccavo, ero felice. In un certo reame, in un certo stato, vivevano un tempo un re e una regina. L'ultima volta mi aveva detto: se mi ammalo tu mi curi. E io avevo detto: sì, sai smacchiare le giacche. E io avevo detto: un po'. In un certo reame, in un certo stato, vivevano un tempo un re e una regina. Il mattino dopo che si è morti, non ci si può svegliare. La vita è finita. È incominciata la morte. Certe volte io credo di assomigliare a qualcuno. Certe volte io credo di non assomigliare a nessuno. Io assomiglio a me stessa, innamorata dell'amore mio. Che fa il mio bimbo? Che fa il mio capriolo? Verrà 3 volte ancora e poi non verrà più. Con questa luce forte si vede a prima vista che l'amore mio non c'è, l'amore mio manca. L'amore mio manca così tanto che non vedo l'ora che sia buio, buio nero, per non vederci più. Dove si ritira l'amore, avanza la morte giardiniera. Io non voglio la morte giardiniera. Io voglio un giardino, con dentro l'amore mio a zappare. Se un giorno l'amore mio ritornerà, io sarò felice. Adesso basta non esserci. Adesso voglio che l'amore mio ci sia. Voglio che l'amore mio sia lì, anzi qui, che io possa, allungando una mano, toccarlo. Questa quieta polvere fu signori e signore. Io non voglio essere quieta. Io non voglio essere polvere. Nelle vite, quando mettono la data di nascita, io vado subito a vedere la data di morte. Poi faccio la sottrazione e metto il risultato. Io non sono morta, io sono nata. Il 19 aprile 1946. 1, 2, 1, 2. Un soldato avanza marciando per la strada maestra. Aveva lo zaino sulla schiena e una sciabola al fianco, perché era stato in guerra e ora tornava a casa. Se l'amore mio a me manca, perché anch'io non mancare all'amore mio? Se all'amore tuo mancassi, l'amore tuo si farebbe vivo. Io alla memoria chiedo di dimenticare l'amore mio e di ricordare le altre cose. Invece io mi ricordo l'amore mio e mi dimentico le altre cose. Il mattino dopo che si è morti non ci si può svegliare, la vita è finita, è incominciata la morte. Io al mattino voglio svegliarmi e alzarmi, non starmene lì sottoterra. Sono viva, credo, i rami sulla mia mano sono pieni di convolvolo. Arrivava da un corridoio lungo. Lui era il più bello di tutti. Tagliategli la testa! Ordinò la regina. Non si può sempre restare. Un po' starò e un po' andrò. Io lo so dove andare. Conosco certi luoghi dove l'amore mio col suo profilo va. Certe volte io penso, va bene, ci sono tante altre cose al mondo, però non c'è l'amore mio. E certe volte io penso, va bene, non c'è l'amore mio, però ci sono tante altre cose al mondo. Attento, se hanno gli occhi aperti, i draghi dormono, se li hanno chiusi, sono svegli. Ieri ho avuto una visione. L'amore mio era in giardino. Metà era vecchio, metà era bambino. Tra la forma della vita e la vita, grande è la differenza. L'amore mio non venendo mi sta mangiando un mostro. Tagliategli la testa, ordinò la regina. Adesso sotto la mia pelle si vedono le mie ossa. Prima non le avevo viste mai. Le mie ossa sono molto belle. Cominciò a passeggiare per gli stradini, a giocare con i bambini. Prendeva uno per la manina, gliela staccava, prendeva un altro per la gambina, gliela spezzava. Le teste sono state tagliate? Lo sono state, vostra maestà. Questa quieta polvere fu signori e signore. Io non sono morta, io sono nata il 19 aprile 1946. Sono viva, credo. I rami sulla mia mano sono pieni di convolvolo. Io non vorrei essere così affezionata. Un poco meno. Hai il coraggio di seguirmi? Chiese. Sono la morte. La prima volta egli mi chiese: posso togliermi la giacca? Io gli dissi naturalmente. Prendeva uno per la manina, gliela staccava, prendeva un altro per la gambina, gliela spezzava. Io li ho visti morti. È impossibile guardarli tanto. Per questo li mettono sottoterra. Io non voglio essere messa sottoterra. Là manca l'aria, anche se si è morti. Oh, i sagrati, disse il vento, è quasi sempre da lì che rapisco i miei prediletti. Perché piuttosto non essere vivi e felici? Io certe volte l'ho provato. Se l'amore mio tornasse, farei l'allegra, la guarita. Supponiamo che mi aspetti, ansioso di non trovarmi dall'altra parte del mondo. Camminerò e camminerò. Non si può sempre restare. Un po' starò e un po' andrò. Camminerò e camminerò. Impossibile che mi stanchi. Ci perseguitarono tanto. Ci misero al rogo. Certe volte io penso, va bene, ci sono tante altre cose al mondo, però non c'è l'amore mio. Per esempio, ci sono le visioni. Con le visioni si può vedere tutto. Si può vedere la visione del profilo delle montagne, con lo sfondo del profilo dell'amore mio. Questa notte io ho sognato che l'amore mio era tornato. Io facevo carezze alla sua mano, ma la sua mano non faceva carezze a me. L'amore mio aveva una mano di marmo. Tagliategli la testa, ordinò la regina. Le teste sono state tagliate? Lo sono state, Vostra Maestà. Ieri ho avuta una visione. L'amore mio era in giardino. Metà era vecchio, metà era bambino. Che fa il mio bimbo? Che fa il mio capriolo? Verrà tre volte ancora. E poi non verrà più.